Ora 21 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, inizia prove tecniche di trasmissione, quindi si torna in diretta dopo la replica dell'Egro con Fuoco che oggi non è andato in onda. Si torna in diretta dunque da queste frequenze anche per oggi 12 aprile del 2017. Il contatto telefonico è 06 49 1750, il sito internet anche per il nostro streaming è www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. In questo momento chi vuole interagire con il sottoscritto può andare sulla pagina di DJ Elettrodo, già adesso frequentata dal buon Raffaele Pezzella da Napoli, che salutiamo, Like a Wake qui da Roma. Alessandra qui da Roma. Maurizio Pustinaz da Torino insieme a Stefano of Lawrence. E gli altri li diremo pian pianino nel corso della trasmissione. Il palinsesto prevede, come normalmente accade di mercoledì alle 22.30, 25 o'clock, che andrà avanti fino alla mezzanotte e oltre. Un saluto anche a Mariolino Stancati dalla Calabria, Simona da Pistoia. E come abbiamo fatto due giorni fa, lunedì scorso, nel corso di Disorder, apriamo anche questo prove tecniche di trasmissione con l'ultimo lavoro dei napoletani Ashram. Probabilmente molti sapranno di cosa sto parlando. Sto parlando di pianismo diffuso, di uno splendido violino e di un terzo lavoro dal nome Human and Divine. D'altronde gli Ashram sono venuti a suonare qui a Roma il primo aprile e ci hanno deliziato con delle vere e proprie gemme estratte da questo album. Per cui ci andiamo proprio a sentire le prime tre tracce, Spirituality, When the Moon Dance e Un tramonto infinito. a lovely life when all ever blends in what you think, what you say, what you do. Happiness and joy is there for you. Let your hair down, see the moon dance. I wanna be there when it happens, when the sea song is a cradle and a dreamer is a sailor. Thank you. queste gemme preziose estratte da uno scrigno magico che porta il nome di Human and Divine, dei napoletani Ashram, terzo lavoro per loro. Splendide atmosfere neoclassiche, così crepuscolari, elegiache. Portate avanti dal violino di Alfredo Notaro Alberti, il pianoforte di Luigi Rubino e la voce di Sergio Panarella. Dopo circa quasi 10 anni tornano dunque tra noi con questo Human Divine. Intanto soprattutto Notaro Alberti è stato attivo come corde oblique e argine, e di quest'ultimi stiamo anche attendendo un ulteriore album, un nuovo album. Anche loro sono assenti da un po' d'annetti. Salutiamo Riccardo Martucci da Taranto, Giulia qui da Roma, Fabio F.K. Drone da Londra, Antonella dalla Sicilia. Molto sud anche questa sera, dunque a prove tecniche di trasmissione. Affascinante rimane sempre il suono del pianoforte, e anche affascinante rimane il modo come suonarlo e applicarlo poi in un'economia generale di un brano. E infatti dopo Ashram andiamo a sentire un altro pianoforte, che è quello di Maurizio Pustianaz nel suo progetto Gerstein. Maurizio, che salutiamo, ha pubblicato con questo nome una compilation preziosissima dal nome 30 Years of Rain. Ci ascoltiamo Biogenetica, il fine ultimo e il primo arrivo, credo, o il primo arritte. Qui è scritto un po' male, ma è per mia colpa. Per ovviare mandiamo invece Putrefacto, Biogenetica e il fine ultimo, naturalmente Gerstein. Look at this moment. E mentre andava Gerstein ci è arrivata una chiamata che ci segnala qualcosa che sta avvenendo in via Tiziano Imperatore, su vicino a Colombo, area Garbatella Ostiense. Oggi pomeriggio era stato occupato uno stabile da quelle parti, da parte del collettivo Scomodo, di cui già si è sentito parlare ultimamente, e puntualmente sono arrivate le forze dell'ordine che hanno sgomberato questa realtà. Peraltro già da quanto ci hanno segnalato era un'iniziativa molto temporanea, che però è stata fatta finire ancor prima degli intendimenti degli occupanti. Sgombero è proceduto tranquillamente, ma ci sono ancora dei compagni, delle persone lì davanti, quindi chi volesse magari in zona può andare un'occhiata in via Tiziano Imperatore dalle parti della Colombo. Dunque, 32 Years of Rain, questa compilation di Maurizio Pustinaz, un pianoforte usato con un soffuso rumorismo in sottofondo, un altro modo di usare uno splendido strumento che è il pianoforte dopo gli ashram. Intanto si va a salutare Unnu Sailin dal Piemonte, della provincia di Asti per l'esattezza. Adesso ce ne andiamo in Nord Europa, esattamente Svezia. Lo facciamo con Necroforus, che è una delle tante facce di Peter Andersson, conosciuto da queste parti soprattutto come Raison d'être. Questo è un vecchio lavoro del 96, Undernet, The Spirit of Tranquility. Si tratta sempre di Dark Ambient, anche se qui l'aspetto gotico è accentuato rispetto a Raison d'être. Ci ascoltiamo il brano che lo va ad aprire, ossia Empyrean. Thank you. un ricordo di questa telefonata che ci è giunta qualche minuto fa. Ci segnala questa occupazione temporanea di scomodo in via Tiberio Imperatore, area Cristoforo Colombo, anche se poi questa occupazione praticamente è stata interrotta dalle forze dell'ordine. Comunque lì davanti permane un concentramento, via Tiberio Imperatore. Intanto sta finendo questo Necroforus, questo The Undernet, The Spirit of Tranquility, un album compilation del 1996, uno degli innumerevoli progetti di Peter Anderson. Peraltro era per l'appunto una sorta di compilation, l'unione di due album probabilmente usciti su cassetta, The Spirit of Tranquility e The Impression of Salvatore Dalì, uniti nel formare questo album che era il primo, diciamo, ufficiale di Necroforus. Non distante dal progetto madre Rise on Death. Torniamo in Italia e ne avremo tanti di artisti italiani questa sera. Torniamo con Giovanni Leonardi, che abbiamo apprezzato in passato come Carnera, Siegfried, Divisione Sensucht, e adesso si cimenta anche con questo suo progetto solistico, questo album che si chiama The Alchemist Organizer, che si discosta parecchio dalle produzioni testé nominate. Giovanni si cimenta e si inoltra in territori più affini alla DM, all'ambient, a un certo modo di concepire l'elettronica, per esempio, che può ricordare la Warp di Aphex Twin e di tanti tanti artisti di quella avventura di Sheffield. Ci ascoltiamo Nigreto, Tiferet e Plasma Vortex. Oh. Giovanni Leonardi, ancora una traccia per da questo The Alchemist Organizer. Intanto andiamo a salutare la Grazia Obligua qui da Roma e naturalmente lo stesso Giovanni Leonardi che ci sta ascoltando da Sassuolo. Nuovi territori battuti dunque da Giovanni Leonardi, molta DM, molto ambient, molto Borzo Canada, molto Aphex Twin, molta Warp e soprattutto di Sheffield. L'album in questione si chiamava The Alchemist Organizer, un lavoro che usciva per l'Old Europa Café in collaborazione con la Blücher Records. A dimostrazione dell'essere eclettico di Giovanni Leonardi, che risalutiamo. Ancora ottime notizie dall'Italia. Lui si chiama Globo Oscuro, è un artista di Livorno, Emiliano Pietrini, particolarmente produttivo. E abbiamo qui un lavoro del 2015 dal nome Phobias, incentrato naturalmente sulle fobie, sulle paure. In collaborazione con Braged Seden, un artista spagnolo. Ci ascoltiamo il pezzo che lo apre, Ablutofobia, da questo Phobias del 2015 per Globo Oscuro. Bye. Quindi stasera è un excursus su come si può usare, come si può suonare un pianoforte in tre diverse situazioni, come ashram, come Gerstein e come anche globo oscuro. Guarda un po'. Da Phobias del 2015, composto insieme a Brage Seden, Angel Sanchez e Carvera, artista spagnolo, e il buon Emiliano Pietrini, che salutiamo, ci dice anche che in realtà questa era una colonna sonora di uno spettacolo teatrale di Tal Libera Mazzolenti. Fatto sta che globo oscuro rimane una delle realtà più intriganti e più interessanti degli ultimi anni. Se si va su Archive, ma se si va anche sulla sua pagina Facebook Globo Oscuro, c'è anche il modo di scaricarsi free download tutto il suo materiale. E quindi lo ringraziamo anche per questo, il buon Emiliano. Ancora Italia, ma operiamo un taglio netto a questo tipo di suoni che hanno caratterizzato gran parte di questa puntata di prove tecniche di trasmissione. Andiamo a Milano con Petrolio di Enrico Cerrato. Si cambia storia, si va verso il noise, un noise promantrico, un noise rallentato con qualche onda di psichedelia dilatata. L'esordio si chiama Di cosa si nasce per Petrolio. Questa sera ci ascoltiamo la lunga Los Suburbios.